Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Sì, sì, ebbene sì, non è una serata come le altre, è un'altra serata dove però questa sera noi non soffriremo. No. Noi non... No. Tu no, tu devi soffrire comunque, no, Luca. Scusa, posso dire che considero... Noi bianconeri non soffriremo, noi questa sera festeggeremo, cari ascoltatori. Tutti in piazza, tutti con le bandiere, tutti in auto, tutti con i fischietti, tutti con le trombette, tutti. Posso dire? Allora, non puoi dire, no. C'è la musica, zitto. Considero ingiusto. No, zitto. Dov'è sta felicità? Zitto lì. Adesso c'è qualcosa da dire su questa felicità. Considero ingiustificata tutta questa gaiezza, questa felicità. Sì, adesso mi comincia a menare. Paese allo sbando. Il paese allo sbando, cioè non sappiamo che ne sarà dell'IMU. L'abbiamo sentito adesso nel GR, non si capisce, non è chiaro. Sì. E quindi non abbiamo dei punti di riferimento tanto chiari. Tanto ha detto Luca Gattuso, direttore, esatto. Ha detto Luca Gattuso. Ha detto che GR. Ha... No, tu ha detto, tu... ha fatto sentire. No, tu hai detto, non è chiaro il GR. No, ha detto, pres del cons, non letta. Non c'entriamo niente, non è stato detto... Luca Gattuso. Lo diciamo subito, anzi chiedo a Luca Cancellara chi l'ha detto. Sono ancora troppo preso, basta, cioè, io sono venuto qua, tu vuoi ancora festeggiare, non ne posso più, te lo dico, come vuoi stanotte più? Avrò gli incubi, ma smettila, cioè. Posso fare sì, un vabbè, no, no. No, cioè, prego, le orecchie Luca. Ti fanno così a Luca Cancellara, cioè, ha fatto una domanda a Sergio, io non lo so, dove sono le trombette, scusa Luca Cancellara, ho fatto una domanda semplice, ora se io alle domande tu non rispondi, diventa problematico. No, puoi farmi, non è che ero... ora è? Facciamo partire da cosa sempre. Che ora è? 22:06. Meno male, questo almeno questo fino ci a qua. Siamo. Sì. No. Seratona, cioè, la seratona, questa, c'è la seratona, ragazzi. Questa qua, dillo. Nel frattempo, diciamo che il Napoli sta vincendo su questa Inter. Diciamo no, un po' lo so. Inter, diciamo una squadra con 11 giocatori della maglia nerazzurra senza neanche un attaccante. E non è l'Atalanta, diciamolo. No, esatto, in questo caso è l'Inter. No, la cosa di cui si discuteva fuori onda è che purtroppo non abbiamo avuto la possibilità, né avremo la possibilità di sapere che cosa è successo in quello spogliatoio prima della partita. Con Stramaccioni che si è guardato attorno e ha detto... Allora, chi è che gioca in attacco stasera? Te giochi in attacco? No, come a calcetto, hai capito? Quando ci si trova fra amici. Io non so, hai dedicato qualcosa per 45 secondi all'Inter, questa sera. Cioè, non hanno attaccato. Cioè, adesso, non vorrei esagerare da questo punto di vista. Posso però... leggerti la panchina dell'Inter? Eh? Se proprio vuoi, non hai nient'altro da dire, allora, diciamo quello, voglio dire. Pasa, Forte, Garritano, Ferrara e non è neanche Ciro... Sì. Carrizo, Belec che sono due portieri e Schelotto che per ovvi motivi in campo non ci andrà mai, cioè, questa è la panchina dell'Inter. Però l'Inter in questo momento sta mettendo alle corde questo Napoli perché è sempre in attacco. Sì, sta perdendo un po' nella logica 2-1. Delle cose. Sì. No, ci sono gente che perde e non riesce ad andare all'attacco lo stesso, non è che voglio dire, non è che Pescara voglio, no? Cioè, sta perdendo e quindi tutti in attacco. Se va all'attacco si prende altri 5 pappini. Esatto, insomma. Però adesso l'Inter ci crede un po' di più perché nel Napoli è dovuto uscire Gamberini per un infortunio, zoppicava. Adesso senza il Napoli senza Gamberini è un disastro. No, non è quello il problema. Chi il problema entrato? È che è Napoli con Rolando, che secondo me crea dei problemi non indifferenti alla difesa napoletana. Quindi tu dici puntiamo su Rolando e vediamo vediamo che cosa ne esce fuori. Vabbè, Luca, che emozione hai provato? Finalmente hai visto un festeggiamento di una squadra seria, no? In questo sì, caso, cioè, un festeggiamento di popolo, giusto? La vittoria di questo 31esimo scudetto, bravo, giusto? Bravo, ti vedo. I colori erano i bianco e nero, mi sembra di aver capito. Non so se cogli, No, infatti, cioè, già, le orecchie ti fanno così, cioè, più coniglio di così non ho mai sentito in radio. 31 scudetti, bravo, Luca Cancellara. I colori erano. Piace. Allora, dicevamo. I colori erano il bianco e il nero, sì, c'erano tante trombette, tutti contenti, piazze, strade, più i cori o meno gente l'anno scorso, non lo sai perché non c'eri, quindi no, però non lo so, io l'ho lasciato che però l'unica cosa che posso, che il pullman era ancora allo stadio, volevo sapere dopo circa 4 ore a che punto siamo, tu avete aggiornamenti? Secondo me siamo arrivati in Piazza Castello, sì, forse sì, siamo sì, andati no, un po' in Piazza, più là. Piazza Castello sì, sono arrivati. E rimarranno lì tutta la notte perché non uscirà, ad uscire, no, adesso tenderanno ad andare poi verso Piazza Carlo Alberto, però non si sa bene. L'unica, noi stiamo monitorando i tweet dei giocatori della Juventus che stanno mandando fotografie. Poco fa ce n'è stata una di Barzagli con una marea di gente, un fumogeno acceso sotto il pullman. Stiamo cercando di capire dove si trovi il pullman, se c'è qualcuno che magari è lì a Torino, li vede passare questi. Tra l'altro due pullman, non sì, uno. E certo, le riserve. Esatto. Le riserve sono nel secondo pullman. C'è il campionato riserve e c'è il pullman sì, riserve. Sì. Poi c'è anche la ristorazione del secondo pullman, perché tanto si passa tutta la serata lì e hai voglia di mangiare. No, però 824 0024 824 0024, qualcuno che ha intenzione piano, di dirci piano, qua... piano, scusa, 800 qualcuno che ha intenzione, ah no, no, numero, non numero, quello 824 0024, se qualcuno ha intenzione di dirci delle cose, non è detto che sia obbligato proprio a dirci qualche cosa. Per quanto riguarda due temi importanti, sì, primo tema, Conte se ne andrà via? Sì, no, non si sa, lui forse comunque fa il furbetto, forse vuole soltanto rilanciare la moneta, come si suol dire. La seconda ipotesi è: basta Ibra per tenere Conte? Ti è piaciuta questa? Ibra per tenere Conte? Perché sai, lui dice: no, vabbè, io posso anche restare, però tanto siamo questi, cioè, beh, o sì, andiamo subito in Champions e allora ne parliamo. Dopo due, dopo due scudetti, vincere il terzo sarebbe un po' noioso consecutivo. Ma e sì, quindi cioè, in realtà poi bisogna fare alzare il livello dello scontro, come si diceva una volta. Bisogna puntare alla Champions. Esatto, esatto. Anche perché poi gli obiettivi della Juve non erano questi. Coppa Italia, no, assolutamente. Gli obiettivi della Juve, vuoi sapere gli obiettivi della Juve? Sì, meglio Conte. Attenzione, cosa è successo? Niente, cross dalla destra, Cavani arriva sul primo palo e sembra già gol fatto perché la prende di esterno, ma la palla esce di pochi centimetri. Zuniga aveva aperto sulla destra per poi il cross di Pandev. Noi in due anni abbiamo stracciato un progetto, va bene? Un progetto che era partito, non dimentichiamo, da due settimi posti e con un disavanzo economico importante. L'abbiamo stracciato perché quel progetto prevedeva che in questi due anni noi, l'anno scorso, se riuscivamo, dovevamo centrare la Champions, se riuscivamo, quest'anno dovevamo entrarci di diritto e l'anno prossimo prepararci a vincere lo scudetto. Non vincere. Spappolato. No, prepararsi non... a vincere l'anno sì, prossimo. No, infatti sto dicendo spappolato, esatto, il progetto, cioè, esatto, capito? Siamo ben oltre. Questo dimostra che la classe dei dirigenti della Juventus è piena di persone incapaci a programmare. Questa è la dimostrazione scientifica. Ecco, Gattuso, potresti stare zitto per 30 secondi? Perché io vorrei parlare con Cancellara che è stato lì in mezzo alla piazza, cioè, capito? Che, cioè, è quale stato... piazza? Quella della festa bianconera, cioè, quella delle trombette, lì, cioè, sempre questa, quella, no? Della felicità. Che cosa hai visto che ti ha incuriosito? C'è qualcosa, è successo qualcosa di particolare? Cioè, hai fatto amicizia, per esempio? Ho fatto amicizia con quella famigliola da Lecce, sì, che ha programmato le proprie ferie. Marito, moglie e due bambini sotto i 7 anni hanno programmato le loro ferie per essere presenti a Torino questa domenica. 1300 chilometri, tutto un anno organizzato, no, ferie, il ponte, no, il ponte devono, allora, devo lavorare. Fatto i calcoli più o meno che più o meno in questo periodo si poteva portare a casa e lo scudetto. E l'hanno azzeccata, quindi oggi era una Piazza Castello a festeggiare con i bambini. Allora, la domanda sorge anche un po' spontanea, vorrei capire dai nostri ascoltatori se c'è qualcuno che ha scommesso. Quanto hanno scommesso, per esempio, sulla Juventus? Sì, a inizio stagione, che era abbastanza prevedibile che la Juventus potesse vincere lo scudetto, però magari qualcuno ci ha anche messo su dei soldi. Però la cosa più interessante sono le scommesse fatte con gli amici, no? la cena, oppure vieni tu che sei interista milanista il giorno dopo lo scudetto in ufficio con la maglia della Juventus, sì, quelle cose qua, terribili, queste cose vergognose, oppure insomma, che cosa avete scommesso? Avete scommesso in qualche modo? Allora, per quelli che vogliono parlarne possiamo fare l'824 0024 824 0024 124, ho detto troppo veloce. Sì. 824 0024. Perfetto. 349 238 6666, ovviamente per quelli timidi che vogliono invece mandarci soltanto gli SMS. 349 238. Aspetta, lo sto facendo. 349 238 238 6 6 6 6, 4 volte 6 ed è facile da questo punto di vista. Intanto voglio dirti, Cancellati, stai comportando bene, però purtroppo non mi hai portato la maglietta. Questo, come dire, così molto non è... No, l'ho barattata all'autogrill con un Icaro. Con un Icaro. Il panino? Il panino, sì, col prosciutto e la mozzarella. Cancellara aveva fame. Attenzione, rigore per Napoli? No, Pande però... Vabbè, Pande è caduto ma si è rialzato. Sì, però... No, scusa, vorrei capire se andare a finire la maglietta, cioè che senso? Ti avevo preso quella con Torino siamo noi... Mm-hmm. Di sberleffo nei confronti del Torino e dell'Inter, la vostra invidia, 31, la nostra goduria. Tutto scritto sulla maglietta, c'era scritto. Sì, avanti e retro. Poi però non avevo moneta all'autogrill. E quindi è mollato il corpo. Sì. Costo della maglietta? Quella è esattamente 15 euro. 15 euro? Sì. Pochino. Ma era anche un cotone un po'. Secondo me non arriva al 32esimo scudetto. Quella deperisce prima. Al terzo lavaggio sei già fregato. Sì. Si stinge e poi si. Allora, vediamo un attimo così. Per esempio, a me non mi sarebbe dispiaciuta la maglietta di Pogba. Pogba, che ti dico essere tra le prime quattro più vendute. Eh beh, certo. Pogba, è facile. Pirlo, Vidal e Marchisio. È il futuro. Senti, ne parliamo dopo il traffico. Quando vuoi. Dai, dopo il traffico. Dai e vai. Strade in diretta. Sulla tangenziale est di Milano ci sono code di circa un chilometro a causa di un incidente tra gli svincoli di Cernusco sul Naviglio e Cologno Sud sulla carreggiata in direzione Autostrada del Sole. Circolazione ora scorrevole sul resto dei percorsi, il traffico però è sempre condizionato dal maltempo al nord con piogge e temporali sparsi. Raffiche di vento inoltre nella zona di Trieste, in entrata Milano per chi proviene dalla 7 Milano-Genova, all'altezza di Piazza Maggi è chiuso per allagamenti lo svincolo per via Cermenate. Sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo invece visibilità ridotta dalla nebbia 50 metri tra Sergi e San Gabriele Colledara. È tutto, il prossimo aggiornamento tra 30 minuti. Dai e vai, non è solo calcio. O Sarracino, o Sarracino, per uguaglione. O Sarracino, o Sarracino, tutte le bene me ne fanno una. Bene capello ricciolizza, occhio brigando solo in faccia, ogni figliola sottizia se vede passare. Una sigaretta in mocca, una mano in da sac, e se la smarciasse per tutta la città. O Sarracino, o Sarracino, per uguaglione. O Sarracino, o Sarracino, tutte le femme ne fanno sperare. E bella faccia, e bella cuore, sa per fare l'amore. E mandrino, e tentatore, si guardate per far innamorare. Volevo dire, Luca Gattuso, Luca Cancellara, ci è arrivato un SMS che dice, che tra l'altro finisce con 63000. 63000, me lo segno. Quindi... Questa qua, siete noiosi, ce l'ha con voi. aspetta che tiro giù un numero, stasera lo chiamo alle 3 di notte, dato che soffro di insonnia, ne parliamo. Alle 3 tu, alle 3 e mezza lui. Ah, giusto, è vero, suonando nel telefono una trombetta, stile vuvuzela, strillante. Sì, invece ci sono questi qua che tentano di fare del cabaret di bassa lega, con corruzione di Italia in aumento, quindi ho scommesso sulla Juve. Cioè, voglio dire, neanche a Zelic più fanno queste battute, cioè, voglio dire, non è neanche satira politica, come dire, tra virgolette. Tornando però a noi, voglio dire, intanto Vidal, Pogba ha detto che costava quanto? 30 euro siamo, qui siamo, però passiamo dal cotone al sintetico, quindi abbiamo la maglia. 30 euro soltanto? Ma erano le maglie tarocche della squadra. Esattamente, sì, siamo quelle tarocche della squadra, tarocca. Ma tarocca buono o tarocca fatta un po' grossolana? No, ma per essere la prima maglietta per un bambino di 7 anni, secondo me è più che buona, quindi 30 euro sono spesi bene. Si largheggia, però il bambino lava tanto, voglio dire, cioè il bambino si sporca tanto. Il sintetico tiene ma molto più del... Vabbè, siete convinti voi, voglio dire, però. Per quello, però deve essere tarocca buona. Sì, hai capito? Ecco qua, comunque, tra gli under 10, Pogba proprio prima in classifica, doppia girata di serratura, proprio in fuga con un giro avanti sugli altri. Cioè, Pogba non lo gli ferma under più 10 impazziscono per Pogba. Sì, i bambini, insomma, sì, sì. Mi stai bambini dicendo. Per i capelli, ma dai, alla grande. Per i capelli. No, perché lui è giovane. È giovane. Sì, però ce ne sono anche Marrone è giovane, per dire. Cosa c'è? Anche Giaccherini è giovane, anche Giovinco è giovane. Ma non giocano. Qui è cambiata la squadra, hai capito, per Pogba, cioè, quindi dopo l'anno scorso era stato Vidal, sì, no? E Conte ha dovuto cambiare la squadra per Vidal. Adesso quest'anno ha cambiato la squadra per invece per Pogba, e quindi è già qualcosa. Siete troppo contenta che uno di voi sia un tifoso Juve, grazie Anna. Ibra ha già dato chi lo vuole più. Chi lo vuole più? Chi lo vuole più? Perché l'ha già data. Perché sì, l'ha è Nau. No, dipende. Nau deve andare a senso. Allora, chi lo vuole più? Conte, non sembra che anche voi Tetro è un poco entusiasta. Sì, guarda, cara Anna, un po' tutti quanti che ce lo stiamo un po' raccontando e dicendo. Cioè, il ragazzo, secondo me, c'ha sotto qualche cosa. Cioè, vuol dirci qualche messaggio. Perché è un po' strano, eh? D'altra parte, però, la cosa che ci chiedevamo anche fuori onda è capire dove potesse andare il buon Conte. Perché va al Chelsea? No, aveva fatto quel quadrunvirato, sì, triangolazione a quattro lati, una cosa, per cui allora Mourinho da Real è un quadrilatero, sì, quadrilato è un'altra cosa, allora Mourinho va dal Real Madrid al Chelsea, sì, ok? Poi Benitez dal Chelsea alla Juventus, Conte dalla Juventus al Paris Saint-Germain. Ma Benitez dove va? Scusa. Dal Chelsea alla Juventus. Ma tu sei fuori. Vai per chiudere il quadrato, no, lascia stare. No. Benitez dal Chelsea alla Juventus, Conte dalla Juventus al Paris Saint-Germain, Ancelotti dal Paris Saint-Germain Real Madrid. Vabbè. E così si chiude il quadrato. Vabbè, intanto. Hai capito? È un po' come giocare a razzo, quando tiri giù tutte le righe. Esatto, senti, la stessa permettimi roba di cambiare argomento e andare a parlare di altre cose. Voglio dire, voi che non capite di queste cose, parliamo di almeno di sport. No, che sono strani, ma che strani perché voi non ne sapete nulla, ovviamente. Quelli annunciati nel GR di Radio 24 pochi minuti fa? Chukbol. Esatto. Vabbè, devo dirti tutto. Chukbol. Ripeti com'è? Chukbol. Chukbol. Giusto, Chiara? Chukbol? Giustissimo, Chukbol. Ah, Chukbol. No, perché cominciavo già... Che può sembrare un po' strano. Sì. Esatto. Non ha a che fare con l'alcol. No. Con... figurati, con noi che siamo cresciuti con Alan Ford, abbiamo vissuto anche Super Chuck, chiedi un po' tu. Quindi, secondo me il capocannoniere o qualsiasi altra cosa, il miglior giocatore del Chuckball sarà il Super Chuck, sarebbe in questo caso. Potrebbe essere, sì, ma abbiamo squadre che si chiamano Chuck Norris, Chuck, vabbè. Eccetera. Allora, zucconi che non siete altro, e dico, ce l'hai con noi? A voi, ma anche un po' gli ascoltatori che non sanno nulla di tutto questo, del Chuckball. Sì. Voi non sapete che in questo periodo ci sono ben 1300 atleti in un chilometro di spiaggia, tra l'altro a Rimini, che giocano a Chuckball, che stanno giocando, beh, non tutti insieme, 20 campi, 4 tornei, 1300 atleti, un chilometro di spiaggia, e stiamo parlando di Chuckball a Rimini Beach. Di che cosa stiamo parlando realmente, però, Chiara? Perché ci può buttare un po' nella sconforto non saperlo. Allora, questo è un gioco ovviamente di squadra che è nato però indoor e che noi abbiamo pensato, come tanti altri sport, di portare sulla spiaggia. E spiaggia è nato indoor al chiuso, ma in che nazione? In Svizzera. In Svizzera? Negli anni 70. Fermali, non ti muovere, Immobile! Suo, ma è suo, anche il San Paolo! Perché tre giocatori che... hanno tre giocatori in Napoli incredibili. Quando riparte l'accelerazione che dicevo prima, si trova la meraviglia. Vabbè, ha segnato Cavani, per semplificare tutto il messaggio. Scusa, c'è il risultato. No, problema, il risultato è 3-1 del Napoli sull'Inter. Siamo al 33esimo gol di Cavani. Vabbè, no, qua lo sto vedendo dallo schermo io. Anche tu, perché tu tifi per? Io sono apolide. Apolide. Nel calcio tifo per la nazionale. Ok. Ho a caso un sacco di interisti che stanno piangendo. Ah, infatti no, avevamo capito che eri interista e ci rendiamo. No, guardo perché almeno so cosa in famiglia sta succedendo. Sì, adesso devi andare al recupero, insomma. Va bene, sì. Senti, allora, tornando a noi, dicevamo, una squadra di uno sport che nasce indoor, cioè al chiuso, in Svizzera. Esatto. E quindi si capisce perché ha chiuso, e quindi nella versione indoor si gioca su un campo che ha le stesse dimensioni del basket, sì, e nelle linee di fondo campo ci sono due piccole porte, un metro per un metro, che hanno una rete tesa da elastici e inclinate di 55 gradi, un po' come dei portaritratti, tanto per dare un'idea agli ascoltatori. Sì, sì. E per fare punto devi buttare la palla, che è una palla da palla a mano e giochi solo con le mani, sì, dentro questa rete, che la fa rimbalzare lontano in direzioni diverse e l'avversario deve cercare di prenderla al volo. Quindi due squadre, quanti giocatori? Sette giocatori. Quindi in questo caso abbiamo un pallone. La particolarità, si può attaccare in tutte e due le porte, è l'unico gioco al mondo. Cioè? Quindi è veramente velocissimo e sorprendente. Ah, quindi tu a un certo punto stai attaccando verso una porta, ti giri e corri verso l'altra porta? Esatto, al compagno lontano, così fai ancora prima che correre, ah, e ribalti completamente la situazione, quindi i difensori, anche loro, devono ricorrere indietro, e praticamente fai a spola di stampo continuamente. Sono tre tempi da 45 minuti, cioè, quindi tre tempi da 15, in totale 45. Quindi c'è una confusione totale, voglio dire. No, perché se fai le regole capisci, ma poi ci sono un sacco di schemi. Cioè, ma tu stai andando verso una parte, poi dopo di colpo zar, ti freghi tutti, ti fermi e vai dall'altra? Sì, però hai delle limitazioni in appoggi, in passi, in tempo di permanenza della palla. Dopo 3 secondi devi dare via la palla. Ah, sì. Quindi ci sono passaggi velocissimi. Velocissimi, è uno dei giochi più veloci del mondo. Sì. Senti una cosa, ma il punto si fa nel momento in cui colpisci con la palla questa rete o quando... No, nel momento in cui cade a terra. Chi? Un po' come l'attacco di pallavolo, la palla. Per visualizzare. Quindi praticamente devi colpire la rete, dopodiché deve rimbalzare a terra. Se colpisci la rete, l'avversario la prende al volo, non è punto, giusto? Non è punto, assolutamente. Ah. E ricomincia immediatamente a giocare velocissimo. Scusa, ma non ho capito. Tiro la un palla. Come a pallavolo. No, ma se non mi fai la domanda, difficilmente riusciamo a capire. Tiro contro la rete, la palla rimbalza e deve cadere per terra. Esatto. Deve toccare terra. Deve toccare terra. Si può toccare solo con le mani. Solo con le mani, si giusto? Si può giocare solo con le mani, così anche con la parte superiore del corpo, sì, il petto, il tronco. Cioè, ma tu ti rendi conto, tu a un certo punto fai un lancio lungo dall'altra parte, tutti che si fiondono perché ormai esatto, a un metro e mezzo dalla porta, fuori lo ritorno di nuovo indietro, cioè, voglio dire, sembra il PD quasi. Cioè, voglio dire, no, a un certo punto non sai dove andare, cioè, da una parte o dall'altra, cioè, è un casino. Cioè, sa punto, giocare, sa dove andare perché riesce a leggere l'attacco prima, in realtà, sì, cioè, sono quelli molto principianti che non riescono a percepire bene dove si svolgerà. Ce l'ha con voi. Tu hai tre passaggi per concludere l'azione, un po' come a pallavolo. Ah, quindi sono fissi. È da vedere, perché è davvero difficilissimo spiegarlo. Al terzo passaggio non hai concluso niente, devi buttare via la palla, insomma, sì, è questo il concetto. Se no, se tiri da lontano e manchi totalmente la porta, fai autogol, cioè punto regalato agli altri. Vecchi marpioni però, eh. Esatto. Ecco, allora stiamo parlando di girone formato da Oman, Bermuda, no, cioè no. Ah, niente, senti una cosa, Chiara, più o meno una partita quanti punti finisce? Allora, una partita di quelle indoor da 45 minuti sui 50 punti, 60, dipende dal livello delle squadre. Cioè, scusa, complessivi? Uno può vincere 60 a 55. Ah, 60, quindi ok, ecco. 60 a 55. Però noi, allora, non abbiamo l'Oman nel nostro girone, ma chi è che abbiamo allora nel nostro girone? Cioè, nell'Italia gioca, no? Giusto? Anche l'Italia perché nei mondiali del 2011, sì, a Ferrara è arrivata seconda, sì, 14 nazioni, dietro solo a Taiwan, dove è sport nazionale, ci sono gli unici professionisti. Cioè, a Taiwan è sport nazionale il chukball? A Taiwan è sport nazionale. Ma in Asia è diffusissimo. Ah, ma è nato in Svizzera? Sì, è nato in Svizzera, ma negli anni 80 è stato visto da una conferenza di educazione fisica e portato in Asia. Siccome dietro c'è tutta una carta etica, un discorso educativo, sì, è stato praticamente diffuso in tutte le scuole e le università come mezzo e veicolo di educazione, educazione divertendosi, no? Uh-huh. E quindi là giocano tutti, loro bellissimo, hanno i giocatori migliori, sono... Ma chi è che ha vinto oggi? Oggi non c'erano i taiwanesi perché c'è una beach festival, sì, in Thailandia che inizia giovedì prossimo, quindi beh, quest'anno non sono venuti, però noi abbiamo vinto, diciamo, le quattro categorie, sì, abbiamo vinto la Slam, che è quella di livello più, senti, alto. Senti, io però posso dirti, tempo, Chiara, che non ho capito un tubo nell'ultima parte, no, perché io voglio capire, ci sono dei gironi, l'Italia gioca in questi gironi? Allora, l'Italia qui a Rimini ha giocato in tutti i gironi, perché sono ed è stata segata tutte le volte, no, ha vinto. No, nello Slam, ti stavo dicendo, che quello tecnicamente più elevato, l'Italia è andata in finale con due squadre, ma qui c'erano club non nazionali, ok? C'erano tantissime squadre. E la finale è stata fatta tra una squadra italiana di Saronno, dove è praticamente il primo paese che ha giocato con l'Italia, è una squadra fatta di giocatori misti tra Ferrara e altre città degli intorni. Ho capito. Oh, in questo caso va bene. Non si sa chi ha vinto. No, non ce lo vogliono dire. Non ce lo vuole dire. Italia Saronno. Ha vinto Saronno. La squadra degli amaretti, finalmente. Saronno. La la la la la. C'è Saronno. La la la la. Finalmente. Cioè, è stata durissima per farti. Ma sai che gli amaretti li fanno morbidi e duri. Questi qua sono gli amaretti. La fase successiva era la tortura per farti dire sto nome. Cioè. Invece se vuoi gli altri tornei un pochino più easy, per esempio quello l'Open, dove ha aperto tutti 87 squadre, ha vinto Ginevra. Adesso è facile dire così Ginevra, perché c'hanno il lago. Dopo che hai detto Saronno va tutto in discesa. Senti Chiara, allora noi ti ringraziamo per averci illuminato su questo Chukball, che ci illuminerà anche d'inverno, perché ci saranno dei tornei. Ci sono campionati di Serie A e di Serie B. Guarda, noi abbiamo i playoff di Serie A, Ferrara 19 maggio. Esatto. Quando, scusa, il 19 maggio? Sì. 19 maggio, Ferrara. Parliamone, perché è l'ultima puntata di Dai e Vai. Per questa, è l'ultima puntata, poi dopo vediamo. Poi in questo caso, magari se le persone vanno a vedere il sito, la parola Chukball in realtà inizia con la T, che è muta, TCH. Sì, questo lo diciamo noi in onda. Lo diciamo noi in onda. Il servizio lo facciamo noi, non ti preoccupare. E poi c'è anche Facebook, mettiamo tutto lì sopra. Tranquilla. Chiara, ti vogliamo bene, è stato bellissimo risentirci. Vai pure in spiaggia. La voce, Ma figurati, si urla. Ma non è la tua quella, cioè c'hai un'altra voce tu. Vabbè. Ciao. Grazie. Ciao, saluta i tuoi amici, anzi i tuoi parenti interisti. Va bene, ciao, mille, buona serata. Grazie, pausa, pubblicità c'è scritto, quindi è bella pausa. Io mi faccio una doccia perché sono tutto sudato. Dai e vai. Mamma, oggi ho cucinato io. Ma che tesoro! Come primo, delle lasagne al ragù. Ma Ciccio, che sorpresa! E come secondo, un vitello tonnato che si scioglie in bocca. Amore della mamma, ma che... Ehi, giù quei gomiti dal tavolo e mettiti il tovagliolo. Eh sì, la mamma è sempre la mamma. Per la sua festa preparale un menù con Viva la Mamma Beretta. I piatti freschi più buoni e gustosi della tradizione italiana, pronti in pochi minuti. Auguri a tutte le cuoche, le mamme del mondo. Viva la Mamma Beretta, li trovi nel banco frigo. Dai e vai, non è solo calcio. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on her streets 'cause she's my companion. I walk through her hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me windy. I never worry, now that is a lie. Now I don't know what I need, like I did that day. Take me to the place I love. Take me. No, era per rallentare un po' il ritmo, perché non ce la facevo più da questo punto di vista. Era veramente. Chi è che ha vinto a Rimini? I amaretti di Saronno. Saronno Italia, quindi Saronno campioni mondiali di Chukball. Io a quel punto io non ho approfondito. Sì. Cioè, okay. Qual era l'area di in cui se era europeo, se era provinciale. No, era... Cioè, no, l'importante è che Chukball inizi con la T. TCH. Per chi è interessato. Vabbè, c'è Facebook. Andate su Facebook, la pagina di Dai e Vai Radio 24 e trovate tutto. Chukball. Direi possiamo considerare sport minore? Di impatto, interessante, curioso, ma sport minore. Andiamo in sport importanti, dove le nazionali sono chiare, cioè dove i ruoli sono chiari. Sì. Team manager nazionale di cricket, Luca Bruno, pronto? Pronto, buonasera a voi e buon pomeriggio a noi. Ah, buon pomeriggio a voi. Questo ci fa già capire che non sei in Italia, è già un messaggio chiaro per gli ascoltatori. Sì, sono alle Bermuda, al Somerset Cricket Ground, dove abbiamo appena terminato la divisione 3 dei gironi di qualificazione mondiale per il campionato del mondo di cricket. E lo dico subito, l'abbiamo terminata a Maluccio. Come no, dire, insomma, cioè. Vabbè, allora, intanto Luca, avete terminato Maluccio, quindi usa un altro tono, perché insomma c'è un po' più triste, come dire, almeno, perché io capisco che tu era lì a perdere e poi dopo alle Bermuda poi qualcosa ti può anche portare a sfasare, no, l'allegria, no, cioè, ho perso però sono stato qua alle Bermuda, insomma, tutto sommato. Invece no, triste, avete perso male, tra l'altro, giusto? Male, oserei dire malissimo, non siamo riusciti a vincere nemmeno una partita. Questo team che sostanzialmente nell'arco degli anni abbiamo portato avanti dal 2007 in poi è stato un team relativamente vincente, comunque che ci ha portato avanti dalla divisione 4, ci ha portato praticamente al 24esimo posto al mondo nel 50 overs su 105 nazioni. Adesso purtroppo in questo torneo veramente negativo ci ributta al 26esimo posto, soprattutto nella divisione 4. Io, scusa, metto giù. Sotto i 25 non vado. Sotto i 25 non vado, metto giù, guarda. Luca, cioè, quindi voi scherzate sul 24-25, ma essere nei primi 30 anche dal punto di vista dei contributi della federazione internazionale è fondamentale. Calcare sotto il 30esimo potrebbe far precipitare i contributi della federazione, cioè, in modo drammatico, ragazzi. Ma stiamo parlando di Maginot, stiamo parlando di Caporetto, cioè smettiamola. Però voglio dire, oltre 25, cioè dal 24 al 26, cioè, a un certo punto state andando tranquillamente verso i 30. Perché tutto questo? Perché il cosa c'è da ridere? Vedi che tu continui a ridere? Perché tu sei lì in costume alle Bermuda e stai parlando al telefono così, no? Bighellonando. No, invece è una cosa drammatica. Cioè, voi siete crollati miseramente e dobbiamo dire perché? Perché dobbiamo dirlo? No, insomma, perché il titolo è Crisi Cricket. Semplicemente, senza entrare troppo nel tecnico, mentre il nostro body side, cioè diciamo il lato di lancio della squadra, ha sostenuto bene le partite. Il lato di battuta, che era il nostro punto di forza, è sempre stato il nostro punto di forza, è stato assolutamente inconsistente. Cioè il lato di battuta sembravamo quello in cui si fanno i punti. Ma è un problema generazionale o è un problema tecnico? Come lo vogliamo definire questo? Bisogna cambiare qualche cosa. Beh, cosa diciamo, cambiamo? Non voglio trovare troppe giustificazioni alla squadra. Certamente noi su questi pitch non siamo abituati a giocare, noi abbiamo un taglio più europeo, giochiamo sull'erba completa, questi sono pitch in terra battuta, falsamente in erba. E noi non ci appigliamo a questa scusa, prendiamone un'altra. Perché? Perché questo? Non sappiamo più gestire i lanciatori a effetto che ci hanno massacrati in modo devastante. Quindi è un problema di difesa. Diciamo che i battitori sono quelli che fanno punti, quindi in qualche modo attaccano. Attacco. Poi è questione di punti di vista. Diciamo che noi non abbiamo mai prodotto i punti necessari per vincere o i punti sufficienti per essere poi difesi dal lato di lancio, purché nonostante il lancio sia stato più che buono. Cosa possiamo fare per avvicinare i giovani al cricket? Dirgli che è uno sport bellissimo. Ho capito. Se uno ci capisse qualcosa, se uno ci capisse qualcosa sarebbe anche facile. Luca, scusa, non vorremmo criticare il cricket perché non lo vogliamo fare, però credo che abbiate le regole più difficili del mondo nel cricket. Ma no, io questo lo contesto fermamente. Tu contesto, però io lo dico. Facciamo dai, non del mondo, d'Europa, via, dai. Cioè, sono regole 42 leggi fondamentali. Quante sono le regole del baseball? Per fare un esempio relativamente vicino, sono molte di più. Molte di più, noi abbiamo 42 regole fondamentale. Poi è chiaro che su ogni regola c'è almeno un libro di 600 pagine. Il problema di fondo. Perché se andiamo nella common law, quindi. Hai ragione. Effettivamente le regole sono molte, però sono giuste per certi versi. Il problema è che la partita è molto lunga, in realtà. Voi, da quanto tempo siete alle Bermude? Noi siamo alle Bermuda dal 19 di aprile. Dal 19 di aprile per fare questo torneo. Una settimana circa di preparazione e poi una settimana, 8 giorni di torneo. Certo. Cioè, quanto può durare? Per adesso senza andare nelle 600 pagine delle regole, che non mi sembra il caso. Intanto ti annuncio che è finita Napoli-Inter, ha vinto Napoli 3-1, se ti interessa, a me sono concesso se ti interessi. Ma lo diciamo, anche per gli ascoltatori. Perché tu tifi per qualche squadra oppure sei così un po' distaccato di fronte? Ma io sono di Torino, sono un modesto tifoso, molto poco appassionato, diciamo, di calcio, diciamo tiferei per la Juventus. Ha vinto lo scudetto oggi, volevamo dirtelo perché magari non lo sapevi. Ecco, questo è interessante. Sì, ecco, ha vinto lo scudetto. Positiva. Ecco, il problema è, normalmente una partita di cricket quanto dura? Allora, esistono le partite, diciamo i test match, che sono le partite di 5 giorni consecutivi e 6 ore di gioco per ogni giorno. Scusa? Ma grazie al cielo noi non abbiamo questo status. Solo 10 nazioni al mondo hanno questo status e a noi non verrà concesso. Certo. Grazie al cielo. Grazie al cielo. Giochiamo le partite, due tipi di cricket sostanzialmente. Questo che è quello di 50 overs, e quindi una partita dura sostanzialmente, questa è cominciata alle 10:30 ed è finita stamattina, è finita adesso alle 5:15, 5:20 del pomeriggio, 7 ore insomma, diciamo. Sì, esatto, 7-8 ore, dipende da quanto va la partita. Questa poteva durare ancora un altro 20 minuti ma noi siamo riusciti ad accorciarla partendo prima. Certo. Vi siete impegnati? No. Però poi abbiamo fatto del nostro. No, è venuto naturale, diciamolo. Via, dai, su. Ecco, questa esatto. Cosa. Ecco. Poi esiste invece una formula che è la formula che viene molto promozionata anche per lo spirito olimpico, per queste cose qua, perché per molto televisivo, e dura 3 ore e un quarto massimo tutta la partita e si chiama T20. Ma è una sciocchezza proprio, va via come l'olio quella lì, è proprio velocissima. Ed è quello in cui ci sono i grandi sponsor, ci sono le grandi leghe indiane dove si fanno, va molto in televisione, l'IPL, altre cose del campionati del mondo eccetera. Vabbè, eccetera, so, perché è molto spettacolare e breve. Senti, che cosa succede adesso? Cioè, avete fatto una figura barbina lì alle Bermude, adesso che cosa succede? Adesso ci prepariamo perché a metà luglio noi andiamo a giocare il girone di qualificazione europeo 2020, appunto, quindi il gioco più breve, cui noi ci siamo qualificati per due anni fa per Dubai, cioè per l'ultimo girone di qualificazione mondiale. Quindi Dubai, e dove siamo ventesimi al mondo, quindi siamo ancora più avanti rispetto a quanto siamo. Quindi va bene, quindi andate al Dubai, quindi è questo il prossimo torneo importante, insomma, dell'Italia. Ho capito bene? Sì, questo è un torneo molto importante perché noi abbiamo fatto molto bene 2 anni fa e abbiamo fatto anche bene a Dubai. Ovviamente lì si va a confrontarsi con squadre veramente molto forti, per fare un esempio l'Irlanda che gioca regolarmente i mondiali eccetera. Senti, non ho capito, mi hai sentito uno sciacquino, non è che sei in piscina per caso? Cioè... No, non sono in piscina, sono in un angolo nascosto del campo perché in questo momento ci sono le presentation, quindi danno tutte le varie... Cavolo, attenzione, dar fastidio. Man of the match eccetera eccetera. Io ovviamente vengo richiamato selvaggiamente. No, noi Luca, non dar fastidio alle presentation, mi raccomando, ci manca solo più quello. Già sei fatto le vacanze, adesso accontentati, voglio dire, ti sei dato lì alle Bermuda per 15 giorni. Senti, noi ti vogliamo tanto bene, ti ringraziamo per questa tua disponibilità, noi ovviamente ti seguiremo prima o poi. Volevi dire qualcosa? No, Luca? Volevo sapere quanti... Ma che te frega, ma dai. No, era per ma sapere... smettila, che sembra di aver interessato poi così. No, sono interessato, cioè, quanti italiani di nazionalità, cioè nati italiani, eccetera eccetera, giocano a cricket? No, ci sono nella nazionale italiana, e quanti invece sono giocatori magari originari di altri paesi? È un mix molto complesso di giocatori nati in Italia, magari residenti all'estero o immigrati di seconda generazione, ad esempio srilanchesi, oppure abbiamo australiani con passaporto italiano, sudafricani, italiani, un po' un mix veramente, Luca, molto complesso. Ne parleremo, scusa, chiamo Luca perché ho anche altri due Luca, ovviamente in studio diventa problematico. Luca Bruno, volevo chiederti questa cosa, ne parleremo, anche perché in realtà è interessante questo mix, nel senso che ci sono un sacco di stranieri che partono da sotto casa mia, te lo dico in maniera molto brutale, qui a Milano, e vanno a giocare a cricket in giro per Milano, quindi qua e là. Senti, ne parleremo in seguito. Noi ti ringraziamo intanto per la tua disponibilità. A presto. Ok, grazie, ciao. Grazie, ciao. Buone vacanze. Ciao, ciao, ciao. O Sarracino, o Sarracino. Che senso? Era con la nazionale, non era in vacanza, dai. Cioè, il manager della nazionale. C'era questo rumore di acqua, di sciacquio d'acqua nella parte finale dell'intervista che lasciava dei dubbi. Sai cos'è? Però... c'era il Martini che c'era lì, forse girava il ghiaccio, cioè questa roba... Ogni tanto sentiva questo clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic. Guarda che non era male però. Era bello, faceva molto Bermuda, però sì sì è vero. Insomma. La mano di Indasac è una smarciata totalità. O Sarracino, o Sarracino, per l'uaglione. O Sarracino, o Sarracino. Se ti vengo e ne faccio sperare, e per le faccia, e per le cuore. Stavo e fa l'amore, e mandrino, e tentatore. Tutto il cricket minuto per minuto, esatto. Pensa che bello. Sì. E il tutto sette per ore, sette ore. Sette ore di partita, tra l'altro mica detto, perché quella finisce sette ore, le altre possono esatto, andare avanti. Ma radiofonicamente è perfetto, perché non è che devi star lì a fare il palinsesto, dici no. Prima metto il GR. No, cricket dalla mattina alla sera è a posto, il palinsesto è fatto esatto. Dalla radio. Mi sorge spontanea una domanda. Ma perché oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2013, mi avete mandato a Torino perché e non alle Bermuda a seguire 7 ore di partita dell'Italia? Ecco, adesso ne risponderemo dopo, sì. Però per le tante domande che potevi fare. No, no, dire, è venuta spontanea. Cioè, tu volevi andare Luca, così, non era solo calcio e quindi volevi andare lì, in questo caso. Vabbè, no. Magari Luca Bruno poteva offrirmi del Campari. Assolutamente. Pirlo? La maglietta di Pirlo? E tarocca, terzo, quella tarocca sempre 30 euro il, il sintetico tarocco mi è sui 30 euro tutti questa, 30 sì, euro sì, non sì, è sì. Che Pirlo ci fanno la cresta perché è Pirlo stesso ripiano della bancarella tutti e 30 euro cioè, Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba sì. Quindi Pogba primo poi Pogba Pirlo incontrastato e poi se la giocavano Pirlo e Vidal subito sotto al terzo posto. Posso farti una domanda un po' così nostalgica? Sì. C'era la maglietta di Del Piero? Non nelle bancarelle, ma addosso era secondo me la numero uno. Tra gli over 10, Alex Del Piero. Abbiamo anche incrociato, ci siamo sentiti in diretta con quella coppia di ragazzi. Uno aveva la maglia del Sydney e l'altro aveva la maglia di Del Piero, originale autografata. Mi manca proprio la parola, cioè sono già c'è il raspino. Cioè questa cosa, il traffico. Però la cosa che si sa è che Del Piero era a Torino. Ho fatto da chiusura giusto, ho fatto tutto il raspino per lanciare il traffico. Del Piero a Torino. Traffico. Dai e vai. Strade in diretta. L'unica segnalazione di riguardo arriva dalla tangenziale est di Milano. Ci sono delle code di circa un chilometro a causa di un incidente tra gli svincoli di Cernusco sul Naviglio e Cologno Sud sulla carreggiata in direzione Autostrada del Sole. Traffico scorrevole sul resto dei percorsi, sempre però condizionato dal maltempo al nord. Ci sono anche raffiche di vento nella zona di Trieste, particolare prudenza chi viaggia sulla A4 e in entrata Milano per chi proviene dalla A7 Milano-Genova è stato chiuso per allagamenti lo svincolo per via Cermenate. Banchi di nebbia invece in Abruzzo lungo la 24 Roma-L'Aquila-Teramo, visibilità ridotta a 50 metri tra Sergi e San Gabriele Colledara. È tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Questo mi sembra il ritmo giusto per la serata, capito? Un po' così tirato, ma che però non dà fastidio, messo lì, il messaggio è chiaro, messaggio bellissimo tra l'altro, no? Poi la canzone è un po' così, crea anche questa sorpresa, insomma. Bandiera? Bandiera, ho scoperto oggi a 27 anni che la bandiera è il simbolo vero di chi deve festeggiare lo scudetto. Certo. Sì, grandi bandiere, cioè di tutti i tipi e di tutti i prezzi, dai 10 ai 30 euro. Vabbè, tutto sui 30 euro comunque, quello dire, no? Sì, sì. Allora, cioè, partiamo dalla bandierina tricolore, quella piccolina che costava semplicemente 10 euro a portata di bambino. Per arrivare a quella più ambita. Scusa, 10 sì. euro vuol dire maglietta più bandierina sono 40 euro. 40 euro. E la sciarpa in raso non me la prendi con scritto campione d'Italia 2012-2013? Euro. Aspetta. Torniamo a noi intanto. Allora, parliamo di cose serie. Allora, sì. Vediamo un attimo. Bandiera tricolore. Piccolina 10 euro. Bandiera bianconera piccolina? Sempre 10 euro. Bandiera grande? Quando è la ce, n'è un, ce n'è una media, diciamo, che era sia col tricolore con lo stemma della Juve, poi anche in doppia tonalità rosa e gialla, siamo sui 15, ma la vera bandiera della, del festeggiamento dello scudetto del 5 maggio, 25 euro. Sì. Quella con tre stelle, con la scritta qui dentro batte cuore bianco-nero. Ah. Così, tanto per canticchiare qualcosa, cioè voglio dire, no? Cioè, senti, quindi, Luca, scusa, ma bandiere 29 non ce n'era neanche una? No, bandiere 29 no. No, piuttosto c'è menano se vai con una bandiera 29 a festeggiare lo scudetto della Juve. Oh, ci sarà è provocazione, ma è provocazione. Ma sì, cosa c'entra? Però ce ne sarà uno che... Onesto? No, che, no onesto, no, cosa c'entra? Uno che... Cioè, non è che sono tutti d'accordo, no? No, però non credo che sia possibile che un tifoso juventino vada con la bandiera con scritto 29 a festeggiare lo vabbè, scudetto. Vabbè, come dici tu? No, volevo sapere se sì. c'era una bandiera con scritto io odio l'Inter. No. Ah. Non c'era nessuna bandiera, almeno che io abbia visto nessuna bandiera di schermo. Perché invece una bandiera con scritto, scusa, non bandiera, una sciarpa con scritto io odio l'Inter, pare che sia stata passata all'allenatore della Juventus Conte, che era sul pullman che stava girando per Torino. Lui ha preso questa sciarpa, quando ha visto io odio l'Inter l'ha immediatamente restituita per evitare polemiche, certo, eccetera, certo, eccetera. Certo. Quindi l'ha rimandata indietro al tifoso che gliel'aveva mentre passato. Mentre invece il buon Buffon ha preso lo striscione 5 maggio io godo ancora. Ora. Sì, sì. E questo così, no? Come dagli torto, come dire, da questo sì. punto di vista, diventa difficile. Data significativa. Invece, sì, perché dobbiamo ricordare per quelli che magari non hanno seguito i grandi eventi di questa nazione. Perché in occasione del 5 maggio la Juventus vinse a Udine e conquistò lo scudetto, uno scudetto che era già stato praticamente stampato sulle magliette dell'Inter, che invece pensò bene di perdere a Roma con la Lazio. Quindi, diciamo così, lo scudetto, l'Inter perse lo scudetto contro la Lazio giocando in casa della Lazio. Esatto, a Roma con la Lazio. E consegnò questo scudetto così. Uno scudetto che era già vinto, perché la Lazio non aveva nulla da chiedere al campionato e quindi si pensava che potesse tranquillamente perdere, invece andò a vincere. Poi volevi dirci qualcos'altro? No, che a proposito di magliette, in vendita ce ne sarà nei prossimi giorni probabilmente una a Napoli che sarà molto richiesta, ed è una maglietta nera con sul petto a sinistra la bandiera stilizzata dell'Uruguay, sulla destra una scritta Cavani e poi una montagna di palloni accatastati con una specie di coccarda che andrà a santificare il 100° gol fatto da Cavani. In realtà poi stasera ha fatto anche il 101° perché ne ha segnati 3. 101 quindi... è un po' il numero che sta un po' aleggiando nel paese, comincia a darmi un po' fastidio. Voglio dire, 101 ovunque, insomma, questo passaggio. E questa è la maglietta commemorativa dei 100 gol di Cavani segnati questa sera, tripletta di Cavani contro l'Inter, quindi 3-1 Napoli 3 Inter 1 oppure Cavani 3 Inter 1, il risultato non cambia. Sì, ok, va bene. Luca, mi hai chiesto che cosa ha detto Conte, va bene, sì, detto, sì, te lo fa. Sì, quest'anno rivincere ha dato una dimensione giusta a questi calciatori, questi sì. iniziano ad essere dei calciatori vincenti, sì. nel secondo anno vincono il secondo scudetto, abbiamo messo in bacheca quest'anno anche la Supercoppa, siamo tornati tra le prime 8 in Europa. Io penso che sia stata veramente un'annata stancante, terribilmente stancante, cioè, però anche un'annata straordinaria in cui gli artefici sono sicuramente stancante, ma questo ben pagata, gruppo di ragazzi che ha sempre lottato superando qualsiasi ostacolo. Ecco. Grazie Conte, che te ne stai andando proprio in questo momento, che è arrivato Aurora Stramaccione, non si capisce perché sta ridendo. Quanto mai sorridente? È la prima volta negli ultimi due mesi che lo vediamo sorridere. Situazione fisica non al 100%. A questo punto ci deve anche aiutare lei a dire chi è che è al 100% come dal punto di vista. È un riso isterico forse, possiamo viverlo in questo modo? Cioè. Io sicuro al 100% sono. Meno male, condizione. Se ne salva uno. Vedi che fa. No, sicuramente dietro i ragazzi hanno veramente stretto i denti, ranocchia. Fino a ieri sera aveva un ginocchio gonfio che non riusciva neanche a infilarsi i pantaloni della tuta. Abbiamo cercato di recuperarlo, la sua gran voglia di stare in campo. Stretta la tuta però. In un momento così non voleva uscire dal campo e sicuramente ha giocato non in condizioni ottimali. E Kivu lo sappiamo, l'avevamo cercato di eroici, diciamolo, lo sintetizziamo in questo modo, perché magari andiamo a riprendere un po' più in là, perché adesso è arrivato uno dei momenti più attesi di questa trasmissione, no? Come tutti quanti voi sapete. Ecco qua, voglio dire, sono momenti importanti. Abbiamo un altro contributo, ci scusiamo per l'altra settimana, ma purtroppo avevamo poco tempo, non siamo riusciti a mandare tutti i contributi. Ricordiamo che noi accettiamo e chiediamo a voi di spedirci gli altri contributi. Andiamo ovviamente con il football americano. Di fronte a una splendida cornice di pubblico si sono disputate ieri sera le tre gare della quinta giornata del campionato di A1 di football americano. Presso il velodromo Vigorelli i padroni di casa Simmer Milano ottengono una vittoria importante per 31-12 contro i Dolphins Ancona. Gli ospiti resistono sino all'inizio terzo quarto, quando sono in vantaggio per 12-10. Poi i Simmer si scatenano, segnano 21 punti consecutivi e con questa vittoria i milanesi raggiungono la testa del girone A, a pari punti con i campioni in carica Panthers Parma. Passiamo a Reggio Emilia, dove gli Hogs hanno ospitato i Rhinos Milano. Partita molto combattuta con diversi capovolgimenti di fronte, sì, che alla fine ha visto vincenti i reggiani per 21-14 dopo essere stati in svantaggio per 14-7 a pochi minuti dal termine. Chiudiamo con Warriors Bologna, Giants Bolzano 14-34. I Giants, dopo aver cambiato il quarterback, ottengono la seconda vittoria consecutiva. Per i Warriors invece arriva la prima sconfitta stagionale. Sabato sera si sono disputate anche tre partite per la Serie A2. Guelfi Firenze, Titans Romagna 26-0, Jaguari Torino, Redskins Verona 35-0 e Saints Padova Lions Bergamo 7-42. In chiusura ricordo che potete trovare maggiori informazioni sui vari campionati sul sito della Federazione Italiana di American Football, www.fidaf.org. Da Torino è tutto, per Dai Vai Radio 24, Alessandro Lucca. Ecco, scusa, volevo dirti che c'è questo piccolo problema, che dobbiamo poi prima o poi affrontarlo. Non era un minuto. È vero. Era molto più lungo di un minuto. Era 1:18. Poi affrontarlo perché non è stato bellissimo. Come si diceva una volta, se ti danno uno spazio, devi prenderti quello. Non è che sul giornale ci attacchiamo le pecette perché lo spazio te ne vuoi prendere di più. In radio hai un minuto, ti tieni un minuto. Non è che fai 1:17. Teniamo di sottofondo il buon Stramaccioni, che sicuramente riuscirà a dare la giustificazione anche per questa sconfitta. Sul nostro rigore e ammonito Jonathan sul loro. Sara. Le abbiamo viste, sì, queste proteste, però ci sembra che anche adesso comunque, sia... questa cosa è vera però, cioè nel senso che io non capisco a volte il metro degli arbitri, non lo capisco. Ma cioè se è fallo sull'uomo... È grave questa cosa, se non lo capisce lui, però voglio dire, cioè questa cosa... Abbiamo avvisato gli arbitri, tra l'altro. No. Gianmarco Ferronato ci ha guidato qui direttamente in questa serata a questo mixer e ci ha portato fino in fondo, insieme tra l'altro a Giorgio De Luca che ci ha assistito in questo programma e a Luca Cancellara che non mi ha ancora detto però... Il felice Giorgio De Luca stasera, l'entusiasta Giorgio De Luca, l'euforico Giorgio, non per la vittoria dello scudetto della Juve, no. Però vabbè, insomma, adesso ormai con questa vittoria del Napoli, no? Ecco, diciamo, quindi... diamo un suggerimento, Nubabà, ecco, e via così. Poi chi vuol capire, capisca. Chi vuol capire, capisca, capito? Ecco, cominciamo a dare anche. Mi sembra di fare un altro servizio sul cricket, cioè, secondo me, non si capisce un tubo di quel che dice. Questa cosa qua, dicevo che Luca Cancellara, pur tornando senza né bandiera né maglietta né sciarpa, tra l'altro, meno la sciarpina, cosa ti costava la sciarpina? 15 euro mi costava. Ho scritto campioni d'Italia 2012-2013. Che ti costa? Cioè me la prendevi, la portavi il regalino. E ti avevo portato la maglietta scatenata all'inferno con Conte. E poi c'ho avuto fame poi. Se ci fosse una frase di Conte sarebbe stato meglio. Capito? Invece cioè, così. Per il prossimo anno ci possono lavorare allora. Prossimo anno la maglietta. Vabbè, insomma, comunque era quest'anno che mi interessava la sciarpina, perché così faceva una bella figura in tutta questa cosa. Beh, noi possiamo anche andare? Domenica torneremo, ovviamente succede. 16:30 come ogni domenica fino alle 19, poi 22:23. La versione, diciamo, un po' col vestito lungo, quella notturna. Campionato finito, ma noi saremo ancora qua, ovviamente, fino al 19, cioè quando sarà realmente finito il campionato. E la cosa fantastica è che anche stasera hanno un sacco di domande da fare a Stramaccioni. Beh, sì. Tipo... Avete avuto la forza di reagire, perché sinceramente ne avevate tre o quattro in un buone condizioni, però proprio a questo presa in non giro sanno questa. Come dirgli, guardate, siete veramente ridotti, cioè è una roba schifosa, cioè è veramente imbarazzante, cioè, fortuna, ma avete provato eufemismo, brutto momento, l'Inter ha perso 6 delle ultime 8 partite, non è un brutto momento quello, non è un brutto momento e siamo intorno alla disperazione più nera. Occasioni, Andrea. Ma no, ma io credo che bisogna sempre interrogarsi su come si può far meglio, Billy, e questo stai certo che lo stiamo facendo e lo stiamo facendo con anche con analisi accurate, però molti infortuni, tu hai giocato, lo sai, quando in una stagione saltano 3 tendini d'Achille e 2 crociati, quelli sono infortuni che esulano. Chi è che ha perso il tempo? Io cioè mi ricordo Javier Zanetti, gli altri poi, due mi ricordo. Chi sono 3 tendini d'Achille. 3 tendini d'Achille, non lo sappiamo, boh, non cioè, lo so. Momento di smarrimento. Questa è una notizione, cioè sono saltati altri 2 tendini d'Achille all'Inter. Io farei subito un lancio, vabbè, comunque io direi che la giornata si può chiudere con questa sigla, questa specie di sottosigla, poi vediamo nel frattempo. Grazie a tutti per l'ascolto, a risentirci. Avvocato, sono EasyLex, ti chiamo dal futuro. Sono la soluzione sempre disponibile per te, anche sul cloud. Lavoro con Mac e Windows e i contenuti del Sole 24 Ore sono parte di me. Io ti semplifico la vita. EasyLex, Easy Life. Vuoi raggiungermi? 24oresoftware.com. Partiamo dal futuro. Più che una pressione fiscale, è una pressa fiscale che rischia di schiacciare artigiani e piccoli imprenditori. Serve un sostegno serio alle imprese, di lungo respiro, o le imprese soffocheranno. Il lavoro non è un lusso. Perché viene tassato come un bene di lusso? Noi abbiamo vissuto meglio dei nostri padri e i nostri figli dovranno vivere meglio di noi. I loro sogni sono la nostra responsabilità. CNA e le imprese, l'Italia che sostiene l'Italia. CNA.it. Il segnale orario vi è offerto da... Bazak.it, il sito di shop.